in primo piano. Martedì 23 novembre, l'apertura del Sole 24 Ore sul piano di salvataggio per l'Irlanda. Il piano Irlanda non basta, questo è il titolo di apertura. Dopodiché, se prendete qualsiasi quotidiano, troverete foto che davvero ci rimandano a un paio di anni fa. L'emergenza dei rifiuti a Napoli, le foto impietose sul Corriere, crescono i rifiuti tra le liti. Su Repubblica, rifiuti, la denuncia dell'Unione Europea. Sulla Stampa, i rifiuti a Napoli, tutto come due anni fa. E poi l'Unità in prima pagina, sulla pelle di Napoli c'è la foto di una signora che porta un bambino in braccio e fa lo slalom tra una montagna incredibile e vergognosa di rifiuti per strada. Ma sono solo alcuni dei titoli dei giornali per l'emergenza rifiuti, che davvero, a giudicare dalle foto, è una situazione ancora molto caotica nel capoluogo campano. Io però voglio partire da una segnalazione che in qualche modo richiama Vieni via con me, la trasmissione di Fazio Saviano, perché il titolo di apertura di Avvenire oggi, o meglio questa campagna che ha lanciato Avvenire, è questa: fateli parlare. Sapete che Avvenire critica Fazio e Saviano per aver ospitato Beppino Englaro, Mina Welby, per aver parlato di eutanasia. E allora è partita questa campagna del giornale dei Vescovi, fateli parlare, cioè le persone che invece sono in condizioni di sofferenza e che però non hanno voce secondo Avvenire e vogliono invece portare avanti il dovere, il diritto alla vita sempre e comunque. Ecco qui, fateli parlare, ci sarà anche oggi un sit-in davanti alla RAI. Tra l'altro Avvenire racconta, pagina 7, qualcosa si muove dentro e fuori la RAI, fateli parlare, questa è l'iniziativa. Per ora si tratta di incontri, ma sappiamo che il direttore generale della RAI, Masi, ha chiamato il direttore di Rai 3, Paolo Ruffini, per sollecitare che nell'ultima puntata di Vieni via con me venga dato spazio anche alla difesa della vita. Insomma, staremo a vedere se dopo la richiesta di Maroni verrà esaudita anche questa richiesta. Così lottano per vivere, Saviano venga a vederli. C'è anche l'intervista al neurologo Giuliano Dolce, che ha 82 anni, è il direttore sanitario dell'Istituto Sant'Anna di Crotone, e ad Andrea Gualtieri su Avvenire racconta come Saviano dovrebbe venire a vedere questi malati, le famiglie di questi malati, perché quando parla di accanimento terapeutico non ha le idee chiare. E su questo tema si esercita anche la maca di Michele Serra, che oggi vi vorrei leggere, tra l'altro io la sottoscrivo dalla prima all'ultima riga. La maca: l'assistenza a chi giace nel lungo sonno del coma non è mai abbastanza. Ci sono persone e associazioni come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, e andate a visitare il sito internet, che presidiano con passione e amore questo confine tra luce e buio, spesso con fondi pubblici largamente insufficienti. Hanno però il vantaggio oggettivo di operare senza ostacoli giuridici, senza alcuna ostilità di tipo etico. Nessuna legge, ovviamente nessuna etica, impedisce a chi lo desidera di rimanere in vita a oltranza. Non così accade a chi, con altrettanta determinazione, preferisce l'interruzione delle cure a una vita a suo giudizio invivibile e invissuta. Al calvario legale, caso Englaro, caso Welby, si aggiunge il discredito etico da parte di chi pretende che il diritto benedica solo le sue scelte e maledica quelle altrui. La disparità di condizioni tra le due scelte nel nostro paese è evidente, così evidente che dispiace non venga colta. I tanti che, specie nel mondo cattolico, protestano vibratamente perché una trasmissione della RAI, Vieni via con me, ha usato raccontare nuovamente la storia di Welby, la storia degli Englaro, non si rendono conto di protestare dall'alto di una libertà riconosciuta contro chi uguale libertà non ha. Forti che protestano contro deboli. Non è neanche molto sportivo. Le foto che trovate su tutti i quotidiani nelle prime pagine oggi sono impietose. D'altronde l'Unione Europea, che è qui presente a Napoli con gli ispettori, dice: la situazione dei rifiuti è come due anni fa, nulla è cambiato. E allora le foto le trovate per esempio Repubblica a pagina 3. Che cosa pubblica? Le foto del 2008 e del 2010 prese in tre punti della città: Santa Teresa degli Scalzi, Sant'Anna dei Lombardi, Via del Carretto, forse anche a pagina 2 ne pubblica altre. Dunque una serie di foto anche all'angolo Via Toledo, 2008-2010, cioè lo stesso punto, i cumuli di rifiuti sono gli stessi. Unione Europea sui rifiuti, nulla è cambiato. A pagina 5 del Sole 24 Ore, la cronaca di Paolo Picone con gli ispettori che abbiamo sentito anche in GR24. E tra l'altro c'è un giallo nel giallo, vale a dire l'irritazione, come racconta Dino Pesole, del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ieri ha fatto una nota del Quirinale in cui si è sottolineato come il decreto che è stato varato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri al Quirinale non è ancora pervenuto per l'autorizzazione alla promulgazione. Il Colle: mai visto il decreto, quando arriverà lo valuteremo. Questa è la cronaca di Dino Pesole. E tra l'altro, secondo Repubblica, Berlusconi dice: attenzione, ci sta dicendo con questo messaggio il capo dello Stato che valuterà se firmarlo oppure no. Sta di fatto che anche Goffredo Buccini fa uno straordinario racconto, straordinario perché è drammatico in alcuni tratti. A pagina 5 del Corriere della Sera, in cui c'è una foto davvero emblematica, ci sono dei bambini con gli zaini, stanno andando chiaramente all'elementare. Infatti questa è la storia di una scuola elementare, anzi una scuola materna ed elementare nel cuore dei quartieri spagnoli, la Paisiello, dove i bambini devono fare veramente lo slalom tra sacchi di rifiuti, con i rifiuti che arrivano quasi all'altezza delle finestre del primo piano. La scuola dei bimbi assediati. Noi, Alfabeto e Munnezza. I rifiuti arrivano alle finestre e gli alunni fanno lo slalom tra i topi. E racconta Goffredo Buccini che c'è una parola, colera, che nessuno pronuncia ad alta voce per paura di passare da untore, ma l'avvicinarsi del freddo dovrebbe del resto essere la medicina migliore per scacciare gli spettri degli anni 70, ma in ospedali di frontiera come il Cotugno si trattiene il respiro e le disdette cominciano a liberare troppe stanze negli hotel del lungomare. Su questo, tra l'altro, ieri si è esercitato anche Roberto Saviano. Chi non l'avesse visto, Repubblica mette in prima pagina, a pagina 6, un ampio sunto dell'intervento di Saviano. L'accusa di Saviano è: i rifiuti di Napoli sono anche i rifiuti del nord. Tra l'altro, su questo il Giornale, che ha iniziato, sapete, una campagna di firme contro Saviano, oggi torna in prima pagina titolare contro Saviano. Per Saviano il nord è spazzatura. L'ultima di Rai 3: tutti i mali della Campania sono colpa dei settentrionali, compresi i rifiuti gestiti dalla Camorra. Questo. E poi a pagina 3: rifiuti a Napoli, Saviano incolpa il nord, la Campania da anni la pattumiera di Piemonte, Lombardia e Veneto. Insomma, un tema su quale Saviano ha scritto molto, anche parte di Gomorra incentrato su questo, e ieri vi è tornato con le annesse polemiche. Anche il Manifesto apre in prima pagina con la foto di Napolitano, l'inceneritore, dura nota del presidente della Repubblica Napolitano: mai visto il decreto legge sui rifiuti del governo. E c'è anche un editoriale in prima pagina di Guido Viale dal titolo La politica delle balle. Tra l'altro, Saviano, sapete, in questi giorni è al centro delle polemiche. L'ultima, sapete chi l'ha detta su Saviano? Pino Daniele. Il cantautore Pino Daniele ieri ha presentato il suo nuovo libro, il suo nuovo CD, e ha detto questo: hanno ammazzato Falcone e Borsellino perché erano vicini alla verità. Voi pensate che se Saviano fosse stato pericoloso non l'avrebbero già fatto fuori? Questa è la domanda di Pino Daniele. Evidentemente non è pericoloso come loro. Pino Daniele è l'autore di Gomorra, è ancora vivo perché non fa paura. Così titola il Corriere, ma lo trovate su tutti i giornali. Per la verità, Pino Daniele si mette in fila con, ricordate, anche Marco Borriello, il calciatore oggi alla Roma, e poi il sociologo Alessandro Dallago ha fatto un suo pamphlet, Eroi di carta, tacciava di ricostruzioni teatrali Saviano, il jazzista Daniele Sepe, famoso a Napoli, che dice la ricetta di Saviano è la stessa della destra di 40 anni fa. Insomma, ora anche Pino Daniele è ancora vivo perché non fa paura, se fosse pericoloso l'avrebbero già fatto fuori. Così Pino Daniele su Saviano. La politica non si interroga solo sui rifiuti, ma anche su, e trovate molto su, i malumori all'interno del centrodestra per il caso Carfagna. Ieri, tra l'altro, Dino Pesole nel suo articolo sul Sole 24 Ore ne parla, dice che ieri Gianni Letta ha incontrato Mara Carfagna. Per la verità, sulla stampa a mediodì la mattina l'incontro diventa una telefonata. Letta chiama la Carfagna ma lei non demorde. Per Libero Salvatore Dama racconta, sotto la foto di un Silvio Berlusconi sbuffante, Silvio stufo dello stalking delle azzurre. Non c'è solo il caso Carfagna per Salvatore Dama e per Libero, ma c'è anche il caso di un'altra ministra che potrebbe esplodere a poco, e vale a dire quello di Stefania Prestigiacomo, ministro dell'ambiente in continua polemica col collega dell'economia Tremonti per via dei tagli ai fondi, e una Stefania Prestigiacomo che starebbe per entrare, secondo i rumors di Palazzo, in Forza del Sud, la costola meridionale del PDL creata da Micciche con la benedizione del Cavaliere. Così ne racconta Libero a pagina 8. E poi ci poteva mancare nel teatrino della politica attuale che cosa? La diatriba sul logo del Popolo della Libertà. Ieri Italo Bocchino ha tirato fuori questa storia. Il logo Popolo della Libertà appartiene, cioè non lo può utilizzare Berlusconi senza fini. E da qui è nata la diatriba politica del giorno. Il logo appartiene al Cavaliere fino al 2017. Un'intera pagina del Corriere della Sera si va a scoprire nell'ufficio europeo del deposito marchi. A chi appartiene? In realtà, fa sapere il Corriere, pare che tutto appartenga a Silvio Berlusconi. C'è anche un'intervista a Giuseppe Pizza, sottosegretario all'istruzione, colui che è l'unico detentore del simbolo della Democrazia Cristiana. È definito il re dei marchi e dice è del Premier il marchio se l'espulsione di Fini è stata valida. Se la procedura è stata rispettata, no, i finiani non possono pretendere nulla. In caso contrario si crea un grande imbroglio politico giudiziario, ma io non credo. E tra l'altro, sfiancato anche da quest'ultima vicenda del logo, prende sempre più corpo, e oggi il Sole 24 Ore con Mariolina Sesto ne parla a pagina 18, l'ipotesi che Berlusconi voglia fare un altro partito. Si è stancato di questo Popolo della Libertà, del nome, del fatto che sia legato troppo a Fini, perché è nato ovviamente con l'Unione, anche con l'Alleanza Nazionale, dunque con Fini. E Berlusconi, racconta Mariolina Sesto, con Scajola pensa al marchio stile 94. Questa è il retroscena. Ci vuole un restyling, ci vuole un nuovo nome, ci vuole un nuovo partito, e avrebbe già dato incarico a Claudio Scajola, ebbene sì, lui, Claudio Scajola, l'ex ministro, ad Antonio Martino, anche lui ex ministro, e Giuseppe Moles, vale a dire coloro che fecero la prima e vittoriosa campagna elettorale del 94, a rilanciare, a fare un restyling, trovare un nuovo logo, un nuovo simbolo, un nuovo nome per un nuovo partito. Anche per Repubblica è così, è Forza Italia, la nostalgia del Premier, cambio il nome, pronti a votare. E ormai è abbastanza assodato che la strada possa essere questa, anche per il giornale che è il primo vari giorni fa a lanciare questa notizia, oggi ci ritorna. Nel teatrino della politica registro anche questa, una lite sempre più forte, la testimonia Fabrizio Roncone con la sua intervista sul Corriere, tra Vendola e Beppe Grillo. Volano parole grosse perché Grillo ha attaccato Saviano, anche lì sempre Saviano, in uno spettacolo di recente, perché ha detto vieni via con me, è fatto dalla Endemol e la Endemol è di Silvio Berlusconi, dunque Saviano fa audience e fa guadagnare Berlusconi. Vendola in un'intervista a Sky ha detto questa è una deriva di integralismo da parte di Grillo, al che il Corriere va a sentire Beppe Grillo che ne ha contro Vendola in ogni modo. Parla di Vendola, anche lui un vecchio che sta facendo politica da 30 anni, Vendola fa politica vecchia, promette fonda partiti, ma non è più tempo di partiti, non c'è più storia del PC che tenga, tradizione, destra, sinistra, questo è il tempo dei giovani, della loro forza in rete, insomma i soliti gran classici di Beppe Grillo, che è stato accusato di Vendola di essere un Savonarola. Ed eccolo qui, sei un Savonarola, tu fai politica vecchia, insomma scambio di battute e se non risse politiche tra Vendola e Beppe Grillo. A proposito di politica vi segnalo anche questa storia messa dal Fatto Quotidiano a pagina 9 a firma Malcolm Pagani e Luca Telese. E Bondi sistemò anche l'ex marito della compagna. Non c'è davvero un momento di tregua per il ministro della cultura Sandro Bondi. A tarda sera, dopo una giornata di dinieghi e scarichi di responsabilità e panico, Il ministro ci chiama, posso dare una spiegazione e sono parole sofferte. Non ho violato alcuna legge, sono solo intervenuto per risolvere due casi umani. È la tragedia di un uomo che era disoccupato e senza lavoro. Il ministro Bondi sta parlando al fatto dell'ultima vicenda di cui siamo venuti a conoscenza. Nei fondi FUS 2009, i fondi per lo spettacolo, c'è una piccola voce di spesa, 25.000 euro, data al signor Roberto Indaco. Voce di spesa a pagina 673 della relazione. Il motivo: teatro e moda. Solo che, racconta il fatto, il signor Indaco è l'ex marito dell'onorevole Repetti, vale a dire l'attuale compagna del ministro. Noi cerchiamo, per tutta la giornata, racconta il fatto, cerchiamo l'onorevole Repetti, cioè la compagna di Bondi. Tra l'altro pochi giorni fa il fatto aveva tirato fuori un'altra vicenda, cioè del figlio dell'onorevole Repetti, che ha anche lui un lavoro al Ministero della Cultura. E, dottoressa, chiamiamola Repetti, ci risentiamo, come vede. Allora vogliamo parlare della consulenza al suo ex marito. E lei rimane catatonica, silente per 10 lunghissimi secondi e poi, clic, mette giù. Le inviamo un sms e lei risponde con un sms così: purtroppo compreso che qualunque cosa dicessi verrebbe ignorata o distorta. Questa non è informazione né giornalismo, ma una campagna strumentale e pretestuosa di diffamazione per colpire unicamente il mio compagno Sandro Bondi. Alla fine della giornata è lo stesso ministro a chiamarci. Guardi, voglio spiegare tutto, voglio chiarire, voglio che diate spazio alla mia replica. Nel caso del signor Indaco non ho fatto altro che aiutare una persona che si trovava in una drammatica difficoltà, aveva le competenze professionali per usufruire della consulenza, quindi non ho violato leggi né norme. Si tratta di importi molto modesti e nel caso di Roberto Indaco, al netto delle trattenute, si tratta di 1.000 euro al mese. Desidererei rispetto anche da un giornale che fa il suo lavoro. Si tratta di una vicenda molto dolorosa, di una storia amara, ma anche del tutto personale e privata. E commenta il fatto: certo, assolutamente privata la vicenda, ma soldi pubblici. Il piano Irlanda non basta, questo come detto il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che si dedica proprio al piano di salvataggio, 90 miliardi di euro, ma poi le cifre vere si vedranno nei prossimi giorni, per salvare Dublino. A Dublino esplode la crisi politica, tra l'altro c'è un retroscena politico raccontato da Nicole degli Innocenti a pagina 3. Per esempio, i Verdi chiedono le elezioni, il premier Cowen resiste, ma certo c'è la finanziaria a rischio e questo piano di salvataggio ora sta rischiando di sprofondare anche la politica irlandese nella crisi. C'è un commento di prima pagina di Roberto Perotti: salvare Dublino non può salvare tutti. Il piano di salvataggio dell'Irlanda non ha riservato sorprese. Circa 90 miliardi spartiti tra banche e governo, ma è solo l'inizio del processo. Nelle prossime settimane si dovrà definire l'ammontare esatto, la quota a carico delle varie istituzioni, soprattutto le condizioni. La strada non è tutta in discesa. Il contributo più sostanzioso, quello del European Financial Stability Facility, va approvato all'unanimità e non sarà facile per 16 paesi mettersi d'accordo. E poi ci sono due problemi, secondo Perotti, una volta definiti i dettagli. Rimarranno due interrogativi, come già successo con la Grecia. Il problema è che ogni salvataggio riduce le risorse facilmente disponibili per gli altri. Per un paese grande come la Spagna, per esempio, quello che rimane dei 440 miliardi dopo che verranno attinto Irlanda e Portogallo potrebbe non bastare a rassicurare i mercati. Le possibili debolezze dei sistemi bancari e delle finanze pubbliche di Portogallo e Spagna erano note già prima del salvataggio dell'Irlanda. Questo dunque è il primo problema. Il secondo interrogativo riguarda il problema dei problemi, l'azzardo morale. I guai dell'Irlanda hanno cause molteplici, ma una componente importante è la garanzia tappeto che il governo estese nel settembre 2008 nel pieno del ciclone Lehman non solo ai depositi delle banche, ma anche a quasi tutti i detentori di bond bancari. Queste garanzie valgono oggi circa i 2/3 del disavanzo di bilancio del 32%. Oggi tutti preferiscono dimenticarlo, ma la maggior parte degli economisti, commentatori e politici all'epoca lodarono l'Irlanda per aver agito con decisione e aver evitato il collasso del sistema bancario e finanziario. È questo l'eterno dilemma dell'azzardo morale. Nel mezzo di una crisi finanziaria bisogna salvare chi ha preso rischi eccessivi e spesso insensati per evitare effetti domino. Ma così facendo si gettano i semi per un ripetersi di questi episodi, perché gli operatori imparano che qualcuno li salverà al momento buono. E questo è dunque l'azzardo morale. Dunque salvare, e poi gli operatori sanno che qualcuno prima o poi ti salverà, e dunque si chiede, però ti si gettano i semi per ulteriori situazioni simili. E beh, certo, ogni volta che si pone un piano di salvataggio, come è stato per la Grecia e ora per l'Irlanda, si pongono gli stessi problemi. Per qualche notizia di cronaca vi annuncio che trovate sia su Repubblica che sulla Stampa questa iniziativa, che non è solo un'iniziativa di cronaca, ma pone anche fa porre delle riflessioni. Scuole aperte a Natale, così le città aiutano i genitori che lavorano. Parte con una scuola elementare Milano. Ci sono esperienze simili anche a Cagliari e Torino, immagino anche in altre parti, in altre città d'Italia. Anche per la Stampa è così: famiglie in crisi, bambini a scuola anche a Natale. Ci sono molte famiglie che devono lavorare anche durante le vacanze di Natale, e dunque alcune scuole, i professori ovviamente sono in ferie, ma alcune scuole hanno deciso: vi terremo i bambini. 10 euro al giorno, 15 euro al giorno, si lasciano i bambini lì e ci saranno degli operatori che li faranno giocare, li terranno durante le vacanze di Natale. Il problema, il dilemma sempre di molti genitori che non sanno, dovendo lavorare anche in vacanza, non hanno delle vacanze lunghe, dove lasciare i bambini in questi giorni. Io vi ricordo tra l'altro il tema del nostro sondaggio. Parleremo del libro del Papa, il libro Intervista al Papa, che esce proprio oggi. Verrà presentato ufficialmente alle 10.30, ma le anticipazioni, soprattutto sulle aperture all'uso del preservativo, hanno fatto molto discutere, anche la possibilità delle dimissioni non escluse dallo stesso Santo Padre, e vi chiediamo se queste aperture vi stupiscono oppure no. Trovate moltissimo anche dello sciopero alla cultura. Ieri sciopero serrata della cultura, viene intervistato Carlo Verdone a pagina 25 del Corriere. Vedo troppi politici improvvisati, danno i soldi al Festival di Sanremo e dimenticano il cinema. Claudio Magris fa un bel editoriale che vi invito a leggere, non c'è tempo, in prima pagina del Corriere. Il teatro della vita elogia il ruolo nella vita sociale, civile, nella storia del teatro. C'è Marco Bellocchio, regista, che fa un intervento su Repubblica, pagina 15, è una battaglia giusta in nome della cultura. E che dire, voglio concludere con Gene Gnocchi, da un po' di tempo che non lo leggo. Oggi è una settimana, parte la settimana di coppe, oggi in campo Milan e Roma, domani l'Inter, e attenzione perché l'Inter ovviamente tutti gli occhi puntati su Benitez, e infatti rompipallone di Gene Gnocchi, Moratti è deciso, Benitez mangerà il panettone, però in Spagna, il GR.